proprio la linea che finisce il novello di tempo e che finisce di legge che si trova in una valle e a coluna la mia prima su più vicca ho sparato alla vacuna ma a coluna io devo andare a venire più alla cittadina di giorni lo apparivo a dire che non è da stabilire perché è una cosa vale la gloria io parlo da un una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è Come si fa a fare? I'm not going to be able to do it. Thank you.